Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Alessandro Bertante, autore di Nina dei Lupi, pubblicato da Marsilio. Il romanzo, tra l'altro, è stato candidato allo Strega e ne parleremo naturalmente anche nel corso di questa intervista. Innanzitutto, Alessandro, partiamo un pochino dalla trama di questo romanzo. Di che cosa parla? Allora, Nina dei Lupi è ambientato in una comunità di montagna isolata, isolata apposta da questi valligiani per scampare a una sciagura che ha colpito la civiltà. È isolata tramite una frana che ha chiuso l'unica via di accesso al paese, appunto una galleria. Questa galleria viene chiusa e loro vivono lontani dal pericolo. Però poi il nemico torna a bussare alle porte e la sciagura che ha colpito l'Occidente, di cui si sa pochissimo, colpirà anche questo paese di montagna, dando vita allo sviluppo del romanzo. Un nemico simbolico o un nemico reale? No, un nemico reale, insomma, una banda di predoni organizzata che colpisce questa comunità di montagna isolata, nel quale Nina, la protagonista dodicenne, per sfuggire alla loro violenza, scappa ancora più in alto in montagna e va a vivere con un uomo in mezzo ai lupi, dovendo rielaborare un rapporto con la natura e con il linguaggio magico. Ecco, che rapporto si instaura fra Nina e la natura? Quando viene meno la civiltà, quando viene meno, diciamo, la tecnologia, quando vengono meno gli strumenti che noi abbiamo abitualmente a disposizione tutti i giorni, il rapporto con la natura diventa più viscerale, diventa più fisico e anche molto più drammatico. Nina deve conoscere la natura in modo fisico, anche in modo più intimo, perché non è abituata a doverla fronteggiare nella sua ferocia e nella sua potenza. Vivono a 2000 metri in mezzo alla neve, in mezzo alle bestie feroci, e appunto per affrontare questi nemici e questa realtà sconosciuta devono elaborare un nuovo linguaggio, e sarà il linguaggio magico. C'è anche un personaggio maschile in questo romanzo che ha a che fare con Nina. Sì, è l'uomo dei lupi, quello che, al quale lei chiede riparo dopo l'arrivo dei predoni al paese. E l'uomo dei lupi, sì, è l'eroe classico della fiaba, perché il romanzo è sostanzialmente una fiaba moderna. È l'uomo che rappresenta la forza, l'eroismo, ma anche il vecchio mondo, che sarà poi superato in una prospettiva completamente diversa, al quale il finale del romanzo apre. Abbiamo visto che c'è questa comunità montana che si autoesclude dalla civiltà, insomma. Come mai ti è venuta l'idea di raccontare una comunità del genere? Innanzitutto, per scrivere Nina dei Lupi sono stato molto influenzato dalla narrativa post-apocalittica che ultimamente, soprattutto nel mondo anglosassone, mi riferisco ad esempio alla Strada di McCarthy, ma anche altri romanzi, ha avuto molto successo, ma ha avuto anche dei grandissimi livelli letterari in atto. E a me serviva però una comunità di montagna isolata, perché non volevo creare la classica dicotomia post-apocalittica, ovvero desertificazione, uomo solo nel deserto, post-nucleare magari. Mi piaceva pensare invece a una post-apocalisse nel quale la natura fosse più forte, fosse rigogliosa, potesse succedere all'uomo. E quale posto migliore essere a contatto con la natura che una comunità di montagna, insomma, dove la natura è ancora forte, rigogliosa e anche feroce. L'apocalisse nel tuo libro viene determinata da una feroce crisi economica. Sì, mi sembrava lo scenario più plausibile, una crisi economica di stampo argentino, quella che abbiamo visto qualche anno fa, però ancora più grave, che colpisse l'Occidente industrializzato, che chiudessero le banche, che non ci fosse più la possibilità del denaro, che si interrompessero i rapporti commerciali basilari, e che secondo me porterebbe a uno scatenarsi di violenza senza precedenti. E io, per scrivere questo scenario, ovviamente sono stato influenzato da dei segni di decadenza che io vedo nel presente. Lo considero un presente in divenire più che un futuro apocalittico. Ecco, la disgregazione sociale e culturale di una nazione o di un contesto, diciamo, sociale, può portare a delle crisi di questo genere. Questo romanzo è stato candidato allo Strega, ma è stato candidato in una maniera un po' particolare, perché è nato prima un movimento dal basso, soprattutto su Facebook, per arrivare alla candidatura vera e propria. Che cosa ci puoi dire a riguardo? Ma io sono molto contento di questo, perché perché è nato un gruppo che si chiama Nina dei Lupi allo Strega, creato da due scrittori, Teresa Ciabatti e Giuseppe Genna, che ringrazio, e che ha progressivamente coinvolto altri scrittori, critici letterari, lettori, lettori comuni, lettori forti, lettori deboli, e convincendo poi l'editore a portarmi allo Strega. È la prima volta che succede una cosa di questo genere, è stato un movimento molto bello, ancora in corso, e continuano a partecipare al dibattito, insomma. Per uno scrittore i premi sono importanti, ma soprattutto lo Strega, direi. Ovviamente noi incrociamo le dita, non diciamo niente, però insomma, che cosa ne pensi tu dei premi letterari? Ma i premi letterari sono tanti, in Italia sono tantissimi, sono tutti molto diversi fra loro. L'unico premio che dà veramente visibilità a un romanzo è il premio Strega, quindi sarebbe ingiusto e anche secondo me in malafede dire che uno scrittore non ci vuole andare. Insomma, io, per quanto mi renda conto, è un premio molto difficile, anche molto lottizzato, perché non lo scopro io, molto controllato dai grandi gruppi editoriali, è comunque una grande vetrina e io sono orgoglioso di parteciparci. La copertina di Nina dei Lupi è stata scelta da te personalmente? Sì, ho fatto un lavoro di iconografico, di ricerca in rete molto lungo, perché avevo in mente una copertina del genere. Volevo un lupo innanzitutto, però volevo anche una foresta scura dietro, e quindi ci ho impiegato tanto, perché provate a mettere la parola wolf in qualsiasi motore di ricerca di qualche sito di ricerca iconografica e vengono fuori tipo 10.000 pagine. Io ci ho impiegato 3 pomeriggi per trovarlo. Per scrivere il libro invece quanto tempo ci hai messo? Un anno e mezzo circa, sì. E grazie ad Alessandro Bertanti, ora in libreria con Nina dei Lupi, candidato al premio Strega. Ora passiamo a parlare di Emilio Salgari. Ne parliamo perché il 25 aprile sarà il centenario della morte. L'inventore di personaggi come Sandokan nel Corsaro Nero è il simbolo del romanzo d'avventura. Ne abbiamo parlato con Silvino Gonzato, uno dei più grandi biografi salgariani, che ha curato il volume Una tigre in redazione, contenuto nel cofanetto Capitan Salgari, edito da Minimum Fax. Sentiamo Gonzato. La grande eredità di Salgari è la possibilità che abbiamo ancora di sognare, cioè dal punto di vista letterario i suoi contemporanei non l'hanno molto apprezzato, e poi con questa tara che si è portato non è stato apprezzato neanche dopo. Però la grande forza di Emilio Salgari è quella della potenza evocatrice e tumultuosa della sua scrittura, la quale ci fa sognare, ha fatto sognare bambini, ragazzi, ha fatto sognare gli adulti e continua ancora a far sognare generazioni di ragazzi e di adulti. È il linguaggio dell'avventura. Io penso che sia stato l'unico che è riuscito a dare nelle frasi, nelle parole, proprio la dimensione dell'avventura pura. Eppure lo sappiamo, Salgari viaggiava pochissimo, viaggiava soprattutto con la fantasia. Sì, Salgari non ha mai viaggiato, se si eccettua un breve viaggio per mare da Pellestrina, Brindisi e ritorno come mozzo, pare che è durato 3 mesi. Ma neppure Verne, quando scrisse i suoi romanzi più importanti, aveva viaggiato. Sì, aveva fatto piccole cose, un viaggio in Olanda, poi successivamente andò negli Stati Uniti in nave e finalmente, ricco e famoso, poté comprarsi uno yacht col quale viaggiò per il Mediterraneo. Però il fatto, bisogna sfatare un po' questo strano mito che ci ha appiccicato addosso a Salgari, cioè il fatto di essere un visionario, uno che inventava tutto. Lui inventava solamente le trame dei romanzi, in realtà pescava poi tutti i particolari scientifici riguardanti animali, piante e altro dai repertori di allora, dai repertori geografici, dalle enciclopedie, dizionari enciclopedici. Allora era tutto un fiorire di questo genere di giornali e di volumi, di libri, era il tempo delle scoperte e altro, per cui lui si è formato una cultura formidabile del mondo attraverso queste letture. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.